Ricordate, un materiale con una composizione flessibile e irregolare può essere morbido e fibroso. È proprio questa struttura a renderlo efficace nell'attutire e bloccare le onde sonore.